Buonasera, Radio Città Fujiko, in compagnia di Max Macchia, 451 frammenti sonori. Nel frattempo, insomma, sono qua intanto a salutare Luigi che ha appena finito il suo pop, e poi la radio, insomma, abbastanza in fermento, visto che tra due giorni, il 28 novembre, ci sarà appunto la festa dei 10 anni di Fujiko. Quindi, poi, essendo stato anche uno che ha partecipato appunto ai primi periodi di Fujiko, prima che diventasse città Fujiko, insomma, quindi mi sento quantomeno partecipe della faccenda, se non altro, insomma, per essere qua quantomeno appunto con 451 frammenti sonori. 451 frammenti sonori, scusate la ridondanza, ma come dire, sans dire, anzi, come dicono i francesi, siamo qua anche per ribadire faccende annose, annosità dovute a musiche che abbiamo chiamato bad vibration, isolazionismo, industrial ambient, e che questa sera, insomma, un po' trovando anche una sintesi tra l'assurdo, perché non esiste, poi è appunto un nuovo così linguaggio musicale che parte tra la fine degli anni 80 arrivando fino ai nostri giorni, Death Ambient, anche per fare una citazione dalla splendida formazione, progetto aperto di Fred Fritt, che abbiamo avuto anche modo di vederlo domenica con Rico, concerto dedicato tra l'altro a Pier Antonio Pezzinga, quindi, insomma, faccenda piuttosto importante, oltre che essere veramente di qualità eccelsa. Si sentiva, insomma, che Rico non esistevano più da tanti anni, ma l'altra sera, appunto, a parte il primo quarto d'ora di rodaggio, poi è stato veramente un viaggio veramente unico dentro le musiche totali di Rico, e appunto delle formazioni anche create dopo da Lindsay Cooper. Il concerto era soprattutto legato alle musiche, anzi soltanto alle musiche di Lindsay Cooper, ma con soltanto chiaramente si va a toccare buona parte, insomma, degli anni 70, 80 e anche 90, appunto, fino purtroppo alla prematura scomparsa di Lindsay Cooper negli anni, da poco tempo, insomma, negli anni 10. E questa sera, quindi, in Death Ambient, Max Macchia vi porterà dentro gli abissi sonori che sono appunto partiti da certe figure musicali dell'industrial, si sono trasformate, come accennavo prima, in forme di isolazionismo, di un ambiente negativo, se vogliamo, una sorta di no age, il contrario appunto della new age, forse di punk age, visto che molti dei personaggi che hanno fatto queste musiche vengono poi per molti versi da quel momento storico di rottura, ovviamente è un punk portato alle estreme conseguenze, più forse è un punk artistico, un punk forse di linguaggio, quindi di trasformazione interna al linguaggio musicale, non tanto ovviamente rock, ma quello che è sempre stato in nuce, molto punk, che poi si trasformò appunto nel post-punk in un suono lancinante, un suono sperimentale, un suono che poi è stato anche molto importante per molto di quello che appunto sarà uno strano connubio, una sorta di trasposizione di certo Brianino di Discret Music con Trouble in Crystal dei primi due dischi. Quindi una sorta di mostruosità musicale che andiamo immediatamente ad aprire con un altro storico del noise, per molti versi figlio di Trouble in Crystal, non tanto forse della Discret Music di Brian Eno, anche se poi le distese musicali ci portano in una sorta appunto di ambient reinventata. Matthew Bauer con Total, progetto dentro Isolationism, per proseguire appunto il discorso lasciato a metà la scorsa trasmissione di 451 frammenti sonori. Come dicevo prima, abbiamo iniziato proprio dalla conclusione dello scorso 451 frammenti sonori da Isolationism con Total, Matthew Bauer e guastatore sonoro che proviene da Ramle, quindi quel progetto insomma eccezionale anche in termini di rumorismo, veramente di suoni lancinanti, che arrivò al limite della Power Electronics, diventata poi famosa tra molte virgolette tramite White House. Parliamo di personaggi di culto legati a certi industrial che si stava trasformando in noise, un noise poi che si è aperto anche per molti versi al rock. Se pensiamo ora a un personaggio eccezionale che ha collaborato con un altro vicino al rock, ovvero KK Null e James Plotkin, tutte e due provenienti dal mondo sì, del rock, quello chiaramente portato a una sorta di grado zero con Zenigeva, gruppo hardcore, anche noise, volendo appunto trasformare quella materia sonora da linguaggio molto, molto aperto a proprio sconfinamenti dentro le musiche d'avanguardia. James Plotkin che da sempre insomma collaboratore di Mick Harris, di Old, progetti insomma che vanno dentro quella carne sonora già aperta poi dal grind, da musiche che si trasformavano da punk, da post-punk in noise, quindi un impatto anche incredibile con quello che fu il cyberpunk della fine degli anni Ottanta, e quelle appunto distese e sonore che sembravano impossibili per rumoristi indefessi come appunto KK Null e James Plotkin, che invece vengono straordinariamente anche esplorati in Aurora. Forse già il titolo insomma ci porta lontano da varie devastazioni sonore, invece per creare un'ambiance molto tra virgolette più aperto. Ci andiamo appunto a prendere questo Aurora, stiamo trattando di un disco di metà degli anni 90, uno dei momenti forse anche più ispirati di quello che è stato appunto un suono isolazionista. Aurora, quindi, James Plotkin insieme a KK Null. Tra i momenti sicuramente più allucinanti, nel vero senso della parola, porta veramente a una sorta di allucinazione sonora, sul serio, di deformazione del suono, anche uno stato alterato di coscienza, la musica di Chejaino. In questo caso abbiamo sentito ascoltato anzi in Niji Umu, progetto che anch'esso stava dentro, come d'altronde poi Total, KK Nulgens, Plotkin, anch'esso dentro Isolationism, tra l'altro fatta anche da una delle multinazionali, poi da lì a venire, delle musiche, non solo, visto che stiamo parlando della Virgin, e quindi insomma un'attenzione. Di certo poi la Virgin bisogna anche contestualizzarla come etichetta di musiche alternative e anche antagoniste per molti versi. Pensiamo che insomma dalla Virgin passarono anche Harry Cole, per un periodo anche Pistols, in maniera piuttosto contraddittoria e anche così, ma con vari strascichi non da poco, e non soltanto musicali, estetici, ma anche economici, e se vogliamo anche da un punto di vista culturale, poi la Virgin è stato un punto di riferimento, uno dei vari tra gli anni 70 e gli anni 80, se pensiamo anche a una Virgin attenta a certa wave che comunque già si stava spostando verso sonorità sicuramente più confacenti, insomma, e a un mercato musicale che forse dopo la grande ondata del post-punk, della wave, tra virgolette, si stava normalizzando, ma poi a ben sentire, nel vero senso della parola, le musiche che stiamo passando e che in genere passiamo qua da 451 frammenti sonori in compagnia mia o dell'Eliseo Scarpa o della eminenza grigia Lorenzo Albano che si occupa, insomma, della faccenda soprattutto bloggistica, e di fatto, insomma, si passano musiche sperimentali, diciamo non esattamente allineate, ecco, dentro le musiche del commercio, se vogliamo definirle tali, e appunto partendo da metà degli anni 80, la seconda metà degli anni 80, abbiamo intravisto dentro certe mutazioni dell'industrial, poi questo suono che stiamo chiamando per comodità Death Ambient, ma la scorsa volta, insomma, abbiamo chiamato in varie maniere, e la Virgin appunto arriva anche abbastanza in maniera sorprendente a coniare un termine che nella metà degli anni, negli anni 90, insomma, ebbe un certo riscontro, ecco, perché varie situazioni musicali anche molto disparate finirono dentro questo, se vogliamo chiamarla etichetta, tanto per capirci, dentro isolazionismo troviamo ad esempio i Tortoise, che insomma ben più famosi dentro le correnti del post rock, troviamo Aphex Twin con il Cast of Windows, quindi dentro un verbo post-techno o techno, insomma, deragliante, IDM, come fu all'epoca chiamato anche in maniera abbastanza infelice, Intelligence Dance Music, che poi tra l'altro tuttora ancora esiste, viene utilizzato come se l'altra, insomma, dance music fosse scema. Sì, magari c'è anche sicuramente della dance music idiota, ma ecco, non è sicuramente con IDM, con appunto l'appellativo intelligence, che si può connotare un percorso musicale che stiamo appunto anche intravedendo e che ha dei rivoli piuttosto particolari, piuttosto, insomma, complesso, ecco. E dentro l'isolazionismo c'era anche questo progetto di Keja Hino, storico personaggio delle musiche altre giapponesi già negli anni 70, con vari progetti, rock che stava trasformando evidentemente in qualcos'altro, che arriverà appunto all'improvvisazione radicale con progetti a nome proprio e con veramente svariati nomi, nomignoli dati anche faccende estemporanee che comunque hanno sempre portato un altrove musicale, appunto, come dicevo prima, anche piuttosto allucinante il linguaggio di Kejenino, e tant'è che, insomma, allambito anche quello che è stato appunto chiamato isolazionismo in una forma, se vogliamo, molto improvvisativa, legata alle musiche aperte, agli happening magari di formazioni storiche come AMM, ma perché no anche MEV, ma potremmo anche andare dentro la radicalità improvvisativa di molte delle musiche inglesi, e perché no, insomma, visto che stiamo parlando del Giappone, proprio perché non parlare, insomma, di Taj Mahal Traveler, storica e leggendaria formazione che partendo da un psycho rock cosmicheggiante arrivò a un'improvvisazione totale assolutamente incredibile per portata sonora, per potenza, per visionarietà musicale, sicuramente insomma figlio, ma neanche più di tanto, anche forse padre, Kejaino di quel suono, insieme appunto a buona parte di Taj Mahal Traver e altre formazioni dell'underground giapponese, e quell'improvvisazione citata anche sia all'inizio di trasmissione e quando dicevo insomma che in domenica abbiamo avuto modo di vedere tra l'altro con il buon Eliseo, e tra l'altro anche presentandolo in varie situazioni qua a Radio Città Fujiko, il concerto di Enrico, abbiamo potuto vedere Fred Fritt insieme agli altri grandi musicisti, insomma in una rifondazione momentanea, ma proprio per questo assolutamente incredibile, anche perché no, meravigliosa nel suo farsi, nel suo disfarsi anche proprio durante il concerto, e in questo così riapparire, una sorta appunto di apparizione se vogliamo anche magica di sonorità totali, di un, comunque una, di uno spirito legato a periodi insomma musicali dove la totalità veniva insomma utopizzata, ma anche appunto sperimentata direttamente sulle musiche. Fred Fritt nel corso degli anni ha creato tanti progetti, passando anche per faccende piuttosto differenti dal jazz prog canterburiano elettronico di Enrico, per approdare a progetti ad esempio in collaborazione con Bill Oswell, con i suoi Material, quindi addirittura dentro un elettro folle, elettro funk assolutamente bestiale nel suo fare, appunto disfare, come appunto Kejaino, ma in una chiave insomma più legata al corpo danzante, in questo senso anche un Fritt che è passato attraverso una precedente intelligence dance music, se vogliamo appunto riutilizzare questo termine infelice, per poi creare progettualità insieme a Zord, ma veramente a tantissimi personaggi, uno degli autori più vulcanici degli ultimi 40 anni, e arrivando anche a creare questo bellissimo progetto, tre dischi, uno meglio dell'altro, che dà proprio il nome alla trasmissione, sia questa che alla precedente, Death Ambient. E incredibilmente anche qua, ma forse il termine incredibile con Fred Fritt non è proprio il caso di utilizzarlo, siamo dentro le musiche assolutamente avveniristiche degli anni 90, musiche che si cibano tanto di improvvisazione radicale e quanto di elettroniche estreme, portate anch'esse a un azzeramento e a una non ambient, appunto in un non luogo che viene definito Death Ambient, anche in maniera piuttosto illuminante, se non fosse insomma fuorviante il termine illuminante, come tanti insomma dei termini positivi che ho utilizzato in queste due trasmissioni, visto che stiamo trattando di musiche che si cibano di negatività, anche in questo senso insomma troviamo un'altra opposizione, musiche che comunque trovano proprio linfa vitale, inutile poi nascondere questa cosa proprio da una sorta di negatività, di linguaggio portato appunto, o non linguaggio, trasponendo anche quello che fu un altro momento storico, quella della No Wave, della No New York, che vede proprio protagonista Ikue Mori con i suoi DNA, e che tra l'altro Ikue Mori dentro la progettualità a Death Ambient insieme a Fred Fritt e Kato Hideki, anche egli guastatore sonoro dentro l'impro radicale, radicale, soprattutto con Ground Zero, altro momento assolutamente storico delle musiche totali e spinte appunto in un altrove musicale. Ma andiamo appunto tutte e tre a trovarli dentro questo progetto Death Ambient, andando proprio a prendere il disco Death Ambient di metà anni 90. Proprio come le faccende di Niji Umu, ascoltato da Drift Work con appunto Cajaino, Keke Null e James Plotkin con l'horror del 95, Isolationism, che è a cavallo tra il 94 e il 96 con varie produzioni. Death Ambient, quindi, dal loro omonimo, e potremmo a questo punto, perché no, dirlo, storico disco.